Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola, quinta e ultima favola della settima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Petula. Isabella, a cui l'ultimo aringo della presente notte toccava, levossi da sedere e con festevole viso disse: Favola quinta. Tre fratelli poveri, andando pel mondo, divennero molto ricchi. Io ho sentito dire che l'ingegno supera le forze e che non è cosa al mondo sì ardua e sì difficile che l'uomo col suo ingegno non la conseguisca. Il che dimostrerovi con una brevissima favola, se attenti mi ascolterete. Trovavasi in quest'alma città un povero uomo che aveva tre figliuoli, e per la troppa sua povertà non aveva modo di nodrirli e sostentarli. Per il che gli figliuoli, astretti dal bisogno, vedendo la grande inopia del padre e considerando le picciole e deboli forze di quello, fatto consiglio tra loro, deliberarono di alleggerire il carico del padre suo e andar pel mondo vagando col bastone nella tasca, per cercar di guadagnarsi alcuna cosa onde potessero sostentar la vita loro. Pertanto, inginocchiatisi avanti il padre, gli addimandarono licenza di andarsi procacciando qualche guadagno, promettendogli che passati 10 anni ritornerebbero nella patria. E partendosi con tal desiderio, poiché furono giunti a un certo luogo che parve loro, si partirono l'uno dall'altro. E il maggiore, per sua ventura, andò in campo dei soldati che erano alla guerra, e accordossi per servo con un capo di colonnello. E in poco spazio di tempo divenne perito nell'arte della milizia, e fecesi valente soldato e valoroso combattitore, di modo che teneva il principato tra gli altri, ed era tanto agile e destro che con 2 pugnali pel muro ascendeva ogni altra rocca. Il secondo arrivò ad un certo porto dove si fabbricavano navi, e accostossi ad uno di quei maestri da navi, il quale era eccellente in quell'arte, e in breve tempo fece gran profitto, sicché non aveva pari a lui, ed era molto celebrato per tutto quel paese. L'ultimo, veramente udendo i dolci canti di Filomena, e di quelli grandemente dilettatosi, per oscure valli e folti boschi, per laghi e per solitarie e risonanti selvi e luoghi deserti e disabitati, e vestigi e canti di quella sempre andava seguitando. E talmente fu preso dalla dolcezza del canto degli uccelli, che smenticatosi il cammino di ritornare addietro, rimase abitatore di quelle selve. Di modo che, stando di continuo per 10 anni in quelle solitudini senza abitazione alcuna, divenne come un uomo selvatico, e per l'assidua e lunga consuetudine di tai luoghi, imparando il linguaggio di tutti gli uccelli, li udiva con gran dilettazione e intendevali, ed era conosciuto come il dio pane tra i fauni. Venendo il giorno di ritornare alla patria, i 2 primi si ritrovarono al destinato loco e aspettorono il terzo fratello, qual poi, che videro venir tutto peloso e nudo, gli andarono incontra e, per tenerezza d'amore, prorompendo in lagrime, l'abbracciorono e basciorono e vestironlo. E mangiando nello starla, ecco che un uccello volò sopra un albero e con la sua voce cantando diceva: «Sappiate, o mangiatori, che nel cantone dell'osteria vi è ascoso un gran tesoro, il qual già gran tempo vi è predestinato. Andatelo a torre». E dette queste parole, volò via. Allora il fratello, che era venuto ultimamente, manifestò per ordine agli altri fratelli le parole che aveva dette l'uccello, ed escavorono il luogo che l'aveva detto, e tolsero il tesoro che vi trovorono, onde molto allegri ritornarono al padre ricchissimi. Dopo i paterni abbracciamenti e le ricche e sontuose cene, un giorno questo fratello che ultimo venne intese un altro uccello che diceva che nel mare Egeo, per circoito di circa 10 miglia, v'è un'isola che si chiama Chio, nella quale la figliuola d'Apolline vi fabbricò un castello di marmo fortissimo, la cui entrata custodisce un serpente che per la bocca getta fuoco e veleno, e alla soglia di questo castello v'è legato un basilisco. Quivi Aglea, una delle più graziate donne che sia al mondo, è rinchiusa con tutto il tesoro che l'ha ragunato, ed havvi raccolto infinita quantità di danari. Chi anderà a quel luogo e ascenderà la torre, guadagnerà il tesoro e Aglea. Dette queste parole, l'uccello volò via. Allora, dichiarato il parlar di quello, deliberarono i 3 fratelli di andarvi. E il primo promise di ascender la rocca con 2 pugnali, il secondo di fare una nave molto veloce, la qual fatta in poco spazio di tempo, un giorno, con una buona ventura e con un buon vento, attraversando il mare, si inviorono verso l'isola di Chio, alla quale arrivati una notte, circa al far del giorno, quel franco soldato armato di 2 pugnali ascese sopra la rocca, e presa Aglea e legatala con una corda, la diede ai fratelli, e tratti rubini e gioie ed un monte d'oro che v'era, indi allegramente discese, lasciando vuota la terra per lui saccheggiata, e tutti ritornorono sani e salvi nella patria. E della donna, la quale era indivisibile, nacque discordia tra fratelli, a cui rimaner dovea, e furono fatte molte e lunghe dispute, chi di loro meritasse di averla, e fino al presente pende la causa sotto il giudice, a cui veramente aspettarsi debba, lascialo giudicare a voi. Fine della storia. Aveva Isabella già posto fine alla sua breve favola, quando, posta la mano alla sua scarsella, trasse fuori l'enimma così dicendo: un nero alto destrier con ali bianche, nell'andar vola e mai non tocca terra, tien dietro il freno e spesso par che stanche l'uomo e nel petto valor grande serra. Battendo or l'ali e or le penne franche, corre così da pace qual da guerra, ha 2 grand'occhi e nulla però vede, ma spesso scorge l'uom dov'ei non crede. L'enimma, ingenuosamente recitato da Isabella, fu quasi inteso da tutti, che altro non dimostrava se non l'alterosa e superba galea, la quale per la pece è nera e ha le vele bianche, e la solca il mare e fugge la terra, a ciò non si spezzi. Ha di dietro il timone che la governa, e ha i remi dall'una e l'altra parte che paiono ali, s'adopra a tempo di pace per mercantare e a tempo di guerra per guerreggiare. Ha in fronte 2 grandi occhi e spesso, per fortuna, conduce l'uomo in luoghi strani, dove egli non vorrebbe. E perché l'ora era tarda, comandò la signora che i torchi s'accendessero e tutti andassero alle lor magioni, imponendogli strettissimamente che tutti la sera seguente, ben preparati all'usato luogo, tornassino, e così tutti unitamente promisero di fare. Fine della quinta e ultima favola della settima notte. Fine della settima notte.